Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette-otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la parte interna soprattutto. Oggi è arrivato via libera della Camera l'emendamento bipartisan riformulato dai relatori al DL Imprese, che estende, questo è il DL Imprese, non il DL Rilancio o Ristoro, come lo chiamo io, che estende a 6 anni da 10 il tempo della restituzione del prestito fino a 25.000 euro, quello che può avere fino al 25% dei ricavi, fino a un massimo di 25.000 euro, quindi fino a 100.000 euro di ricavi, che ha la garanzia del 100% del Fondo Centrale per le Piccole e Medie Imprese. Interviene anche sui tassi di interesse la modifica, perché non potrà superare il tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,2%, insomma c'è un tetto anche sul tasso di interesse, e tra l'altro viene alzata, il livello viene alzato a 30.000 euro e non da 25.000 euro. E poi un'altra novità importante di cui parleremo in apertura è i prestiti fino a 800.000 euro con garanzia pubblica fino all'80% e quella di Confidi, perché deve portare poi la garanzia pubblica al 100%, potranno essere restituiti fino a 30 anni. Il problema, da quello che vediamo, non è a questo punto la legge, ma è, da un lato, a mio avviso ha ragione il sindacato dei bancari, la Fabia, a dire va bene, ma date la tutela legale e quindi lo scudo legale ai responsabili crediti delle banche, perché il timore ancora in molti è che se un domani dovesse fallire l'impresa a cui tu hai prestito i soldi, al di là del fatto della garanzia statale, tu potresti essere chiamato in causa, perché potresti essere accusato di aver prestato soldi a un'impresa che era già in una situazione fallimentare, e chiedono una tutela legale che secondo me è più che corretta, almeno chiarire che non vi può, che questi soldi che le banche fanno solo da intermediario, non sono realmente loro che decidono, fatte salve appunto le norme antiriciclaggio, lo stato in bonis e l'assenza appunto di protesti, ma non sono loro, fanno da intermediario rispetto alle decisioni statali, le garanzie sono statali, e quindi dare lo scudo legale su questo, perché le resistenze che vediamo nel mondo bancario, che ci sono in parte giustificate da questo, in parte no, in parte abbiamo avuto molti imprenditori che ci hanno scritto guardate che a me è stato proposto invece di attivare un'altra linea di credito della banca, non quella garantita dallo Stato, quindi c'è una resistenza in generale in alcune banche, ma c'è anche un elemento oggettivo di tutela che soprattutto i responsabili chiedono. E di questo parleremo poi anche del resto dell'impianto, perché oggi il presidente non tanto del DL Imprese, ma dell'informativa che ha tenuto il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera sulla fase 2, sul rilancio, nello specifico la parte che riguarda chiaramente l'economia e le misure per imprese e famiglie. Oggi tra l'altro la Commissione Europea ha dato il via libera a un piano ombrello cosiddetto dal valore di 9 miliardi per interventi a sostegno delle aziende da parte delle regioni e di altri enti locali. Conte ha anche detto, ma insomma avete ascoltato nei nostri GR24, non potevamo fermare il paese nell'attesa di un vaccino. Poi parleremo invece a proposito di come il paese deve modificare, deve cambiare, al di là della burocrazia. Domani ci occuperemo delle opere pubbliche, perché a mio avviso l'esempio o il modello ponte di Genova deve essere utilizzato, e quindi la capacità di velocizzare almeno le opere che definiamo prioritarie, quelle non più rimandabili, e con buona pace di chi è contro le grandi opere, anche le grandi opere, perché non si può, sono importanti le opere dell'edilizia scolastica e edilizia sanitaria, ma sono importanti anche le grandi opere, anche perché mobilitano più risorse e quindi hanno ricaduto più forte sul sui territori e sulla domanda interna in generale. Ne parleremo perché al di là delle opere infrastrutturali in senso fisico, c'è il tema delle opere infrastrutturali digitali e quindi la connessione. La connessione e la digitalizzazione del paese. Ora, siamo stati, cioè, paradossalmente l'emergenza coronavirus ha portato un'accelerazione nell'adozione di pratiche, penso allo smart working o la didattica a distanza. E quindi questo è, tra virgolette, positivo perché o la ricetta elettronica varata per evitare di dover andare, diciamo, a incontrare il medico per la ricetta cartacea. Il problema adesso è continuare con questo salto e implementare la parte, diciamo, di infrastrutturazione digitale, perché sennò va bene lo sforzo, diciamo, fatto da tutti noi, fatto dalla scuola, fatto dalla, e anche dai cittadini, però occorre che, e su questo ne parleremo, vi sia un investimento anche nella parte digitale. E poi l'appuntamento che avevo rimandato con il mondo, diciamo, del turismo, non riusciamo a affrontare tutto il turismo in una volta sola. Oggi ci occuperemo degli stabilimenti balneari, anche perché ci sono novità che riguardano alcune regioni stanno anticipando, la Sardegna, che ascolteremo anche le dichiarazioni del presidente Solinas, poi la Spagna ha tolto il divieto di ieri di voli e traghetti dall'Italia, mentre Kurz dice la riapertura con l'Italia sarebbe responsabile, non apriremo a chi non ha il controllo della situazione. A me Kurz mi sta sempre, al di là del nome, che è l'unica cosa che mi piace di Kurz, però tra l'altro vedo questa opposizione dei paesi Danimarca, Svezia, Austria e Olanda al piano Recovery Fund, all'ipotesi, appunto, di un piano fatto non di prestiti ma di sovvenzioni. Tutto bene, eh? Poi andiamo però anche a considerare il peso economico oltre che politico di questi paesi. Non è che tu puoi bloccare l'intera area euro per, diciamo, quattro stati che con tutto il rispetto hanno un peso economico che, diciamo, vale alcune regioni della Francia o della Spagna o dell'Italia, perché se no, allora lì abbiamo sempre detto che uno vale uno, non ha senso in molti casi, ecco, non ha senso neanche in questo caso, perché ci sono economie diverse e paesi diversi dentro l'Europa. Piaccia o non piaccia agli austriaci, agli olandesi, agli svedesi e ai danesi. Ma di questo oggi non parleremo perché il tema del recovery è ancora oggetto di discussione. Per quello che riguarda invece lo faremo solo nelle notizie in breve, per quello che riguarda la borsa invece, oggi c'è un calo dello 0,6% a Milano, -1% a Parigi, -1,30% a Francoforte, Londra -0,40%, Dow Jones mezzo punto percentuale di calo, va molto bene Nexi, +7,40%, Mediolanum +2,70%, come Pirelli +2,30%, Exor +1,70%, Enel +1,5%, negativa Tenaris del 4,20%, Saipem del 3,60%, Banco BPM del 3,30%, Generali del 3%, Leonardo -2,80%, Estima Cretonics -2,60%, Eni -2,30%, Unipol perde il 2%, euro su dollaro sempre abbastanza stabile, quota 1,09, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Focus, la diretta su Facebook, scusatemi, stavo leggendo alcuni messaggi su Danimarca, Svezia, Austria e Olanda, beh sì, secondo me fanno bene poi i paesi Spagna, Francia, Italia a premere allora perché vi sia una riforma vera all'interno dell'Unione Europea, per cui per esempio Olanda non possa far concorrenza interna di carattere fiscale, cioè sulla tassazione, perché se dobbiamo andare a fare le pulci a tutti, allora ci mettiamo a fare le pulci anche, come hanno ben documentato su Sole 24 Ore Angelo Mincuzzi qualche settimana fa. L'Olanda è piena di grattacieli in cui esistono società fittizie, cioè esiste solo la targhetta, il campanello, che poi hanno come scopo, anche se possibile, di portare i soldi verso altri paradisi, non solo le Antille, ma anche altri paradisi fiscali. Quindi se dobbiamo fare le pulci, facciamo le pulci a tutti, ma anche di questo ci sarà modo di parlare. Vediamo se la Germania riuscirà a imporsi su questi stati, vabbè, non voglio essere offensivo, satelliti. 349-238-6666 per sms e whatsapp, rapidamente le altre notizie in breve. No, qualcuno mi sta scrivendo che finalmente è arrivato il prestito di 15.000 euro una via crucis tra moduli da compilare, documenti da scansionare. Vabbè, è vero che la compilazione del modulo è lunga, è lenta, farraginosa, ci sono 19 pagine, 75 campi. Però altri mi stanno scrivendo: guardate che io ho sulla scrivania 60 richieste di finanziamento, ci vuole tempo a evaderle tutte, le pratiche vanno fatte, il tempo comunque ci vuole. Per carità, io non sto dicendo che debbano arrivare il giorno dopo, l'importante è che tu abbia come imprenditore la certezza che questo prestito arrivi. Poi se arriva una settimana in ritardo, certo, uno o due settimane in ritardo è una cosa. Però andiamo avanti con le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Oggi sono arrivate altre 2.400.000 richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, leggermente in calo rispetto alla settimana scorsa, che erano 2.700.000. Comunque in questo momento ci sono 25 milioni di americani che stanno ricevendo il sussidio di disoccupazione. La cosa impressionante è che nell'arco di 9 settimane, cioè di poco più di 2 mesi, ci sono 38 milioni e mezzo di americani senza lavoro. Lo dico, è impressionante, perché noi ci lamentiamo del nostro mercato del lavoro, per carità, quello è un mercato del lavoro molto veloce a crearsi, a crescere, e altrettanto veloce a distruggersi. Ricordo che prima dello scoppio del coronavirus gli Stati Uniti viaggiavano ed erano uno degli elementi di forza nella campagna elettorale di Trump, con tassi di disoccupazione ai minimi storici o comunque bassissimi. Si arrivava a 230.000 richieste a settimana, non 2.600.000. Per quello che riguarda invece i segnali di recupero, ci sono timidi nell'area euro. L'indice dei responsabili acquisti, si chiama PMI, Purchasing Managers Index, è risalito leggermente, o meglio, è risalito a 30 punti. 30 punti sono ancora ben sotto i 50 punti che segnalano la differenza tra un'espansione economica e invece rallentamento o recessione. Però faccio notare che erano a 13 punti, era a 13 punti nel mese di aprile, quindi è più che raddoppiato. È salito anche in Germania, ma sotto le attese, a 36 punti contro 34 punti di aprile. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, oggi il membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Fabio Panetta, ha detto che i finanziamenti che le banche hanno a disposizione da parte della BCE a tassi negativi, che vanno poi girati a famiglie e imprese, sono 3.000 miliardi, una cifra enorme, due volte il PIL italiano. E poi Panetta ha definito la proposta franco-tedesca un passo in avanti. Anche Juncker, è riapparso Juncker, l'ex presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, ha detto che la proposta franco-tedesca è positiva sul Recovery Fund. E Conte ha definito è un passaggio importante, ma la Commissione può fare di più. E oggi ospite a 24 mattino con Simone Spezzi e Maria Ratella a Radio 24, il ministro agli affari europei Enzo Amendola ha detto il problema adesso è il tempo, cioè quando arriveranno le risorse europee sul tavolo, oltre a SURE e il MES e il fondo della BEI per le piccole e medie imprese e appunto il Recovery Fund, occorre chiudere l'accordo a giugno. Il tema è ovviamente quando arriveranno queste risorse, che sono sul tavolo, e adesso oltre a SURE, che abbiamo già approvato, 100 miliardi per la cassa integrazione, oltre alla linea di credito del MES per la sanità, oltre a un fondo della BEI per le piccole e medie imprese, dobbiamo chiudere a giugno un accordo sul bilancio europeo e questo famoso Recovery Fund. Quindi sul tavolo, rispetto a un mese fa, abbiamo molte cose su cui essere contenti, contenti perché significa che l'Europa sta reagendo in maniera coordinata e unitaria. Ora il 27 la Commissione presenterà la proposta, che sarà il punto di partenza del negoziato, che vogliamo chiudere a giugno, e c'è un accordo largo che anche il documento franco-tedesco sottolinea, che ovviamente questo accordo significa che gli anticipi delle risorse devono partire subito, non possiamo aspettare gennaio 2021. Certo, come in tutti i negoziati, non è facile mettere 27 interessi nazionali d'accordo, però questo contributo franco-tedesco apre la via a scelte coraggiose, perché si parla finalmente di sussidi, non di prestiti, e la rappresentazione nord contro sud, onestamente, scusate, ma ha un po' stancato, perché non c'è questo dibattito, c'è un dibattito su come costruire un fondo, come farlo, perché la proposta franco-tedesca che era quella dell'Italia e degli altri nove, cioè di fare un ricorso al mercato, quindi qui c'è il vero passo avanti che si è fatto nelle ultime settimane, cioè sì, quindi abbiamo una strada nuova. Vedremo con i frugali quali sono le loro posizioni, perché al momento, al di là di dichiarazioni che secondo me valgono molto per l'opinione pubblica nazionale, io proposte non ne ho viste, in base a quello continueremo a negoziare, ma il punto di partenza sarà la proposta della Commissione il 27 maggio. Sì, frugali è il nome che si sono dati questi paesi, sì, frugali con le tasche degli altri, penso soprattutto all'Olanda, perché poi quando c'è invece da diventare una specie di paradiso fiscale interno all'Unione Europea, di frugale lì c'è poco, cioè, di monastico vedo molto poco, pecunia non ho letta neanche in Olanda, e quando poi c'è da attrarre le sedi fiscali di grandi gruppi europei. Comunque andiamo avanti. Per quello che riguarda la fase 2, veniamo qui all'Italia, ci sono dei dati oggi, no, una cosa la voglio ancora dire, Cipro è il primo paese ad annunciare che userà il MES nella versione leggera, quindi quella senza condizionalità. Il Financial Times dedica un'ampio analisi all'utilizzo del MES e dice che l'uso dei fondi rafforzerebbe lo scudo anti-spread della Banca Centrale Europea. Accedere alla nuova linea di credito del MES dedicata alla pandemia permetterebbe alla Banca Centrale Europea di ampliare il proprio scudo di protezione anti-spread a beneficio dei paesi più esposti. Questo lo dico a chi mi sta scrivendo, a Bella Europa, in una logica di più Europa, non meno Europa. Non c'è un partito in questo momento in Italia che se la senta di sostenere che possiamo andare avanti da soli. Lo dico, che poi questa Europa abbia molte, diciamo, elementi critici, sono il primo a dirlo, però attenzione, qui stiamo ragionando per più Europa e più solidarietà europea e più fondi europei. Da soli, con una tempesta del genere, si va da nessuna parte. Italia, allora, è record per il BTP Italia, perché sommati i 14 miliardi sottoscritti dai risparmiatori più gli 8 miliardi e 300 milioni sottoscritti dagli istituzionali, il BTP Italia ha raccolto 22 miliardi. Nel frattempo, poi ne parleremo, i dati della domanda del fondo di garanzia sono arrivati a 303.000 per un importo di 14 miliardi. Queste le richieste di garanzia che le banche hanno fatto pervenire al fondo di garanzia. La stragrande maggioranza delle domande riguarda le operazioni fino a 25.000 euro, 271.000 richieste per 5 miliardi e 600 milioni. Le altre riguardano invece la parte più alta, cioè fino a 800.000 o fino a 5 milioni. La grande distribuzione fa notare che ha avuto cali pesantissimi anche fino al 28%, nel non alimentare fino al 50%. Questo è un rapporto di European House Ambrosetti realizzato per Fede Distribuzione, e dice: attenzione, c'è il rischio della sopravvivenza di molte imprese, fino a 92.000 imprese, il 20% di quelle non alimentari, che chiaramente hanno avuto cali più contenuti. A Milano, restando sulla fase 2, il 97% dei negozi, lo dichiara un sondaggio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, sono aperti, però i clienti hanno una riduzione, diciamo, intorno tra l'80% dei ristoranti e il 50% dei servizi alla persona, quindi mediamente ci sono solo il 30% di clienti rispetto a, diciamo, al pre-coronavirus. Un'ultima notizia riguarda invece i dati INPS sulla mortalità. Allora, qui vanno presi con le pinze, perché però insomma, sono inequivocabili. Se tra gennaio e febbraio in Italia ci sono stati 114.000 morti, ossia 10.100 in meno rispetto a quelli attesi, fra marzo e aprile i morti sono stati 156.429, ossia 46.900 in più rispetto a quelli attesi. E allora, dice, il numero di morti dichiarate nello stesso periodo è di 28.000 unità per Covid-19. Ora, possiamo anche immaginare che purtroppo vi possono essere state anche dei decessi dovuti all'intasamento, all'affollamento degli ospedali, alla lentezza anche degli ospedali per via del, diciamo, dell'emergenza Covid. Fatto sta che al nord del paese i decessi tra marzo e aprile sono aumentati dell'84% rispetto alla media degli anni precedenti, mentre al centro-sud, al centro hanno fatto più 11, al sud più 5%, e questo se non si chiama effetto coronavirus. Addirittura le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza hanno avuto un aumento dei decessi del 200%. E Conte oggi nell'informativa alla Camera ha detto non potevamo fermare il paese. Comunque, in attesa del vaccino, il piano di monitoraggio ci consente di disporre un quadro dettagliato della curva epidemiologica e ci permetterà di intervenire con misure restrittive se in alcuni luoghi specifici vi saranno nuovi focolai. Abbiamo predisposto un accurato piano nazionale di monitoraggio che ci consente, sulla base delle informazioni quotidiane che sono tenute a trasmetterci le regioni, di disporre di un quadro dettagliato della curva epidemiologica, fondato sull'incrocio di una nutrita serie di parametri. È un piano che ci permetterà di intervenire, se necessario, con misure restrittive nel caso in cui in luoghi specifici dovessero generarsi nuovi focolai. Siamo consapevoli che l'avvio della nuova fase potrebbe favorire in alcune zone l'aumento della curva del contagio. È un rischio però che abbiamo calcolato, che terremo sotto osservazione. Dobbiamo accettare questo rischio, non possiamo fermarci in attesa di un vaccino. Altrimenti non saremo mai nelle condizioni di ripartire, ci troveremo con un tessuto produttivo, un tessuto sociale irrimediabilmente compromesso. Non ci possiamo permettere di protrarre l'efficacia di misure sì limitative per un tempo indefinito. Un ordinamento liberale e democratico non può infatti tollerare una compressione dei diritti fondamentali se non nella misura strettamente necessaria a difendere i beni primari della vita, della salute dei cittadini, in dipendenza di una minaccia grave e attuale. La permanenza di misure di così severe, misure limitative, oltre il tempo necessario a invertire la curva del contagio, sarebbe dunque irragionevole e assolutamente incompatibile con i principi della nostra Costituzione. E poi sempre il Presidente del Consiglio ha aggiunto: siamo consapevoli che, insomma, la riapertura in sé delle attività commerciali non è sufficiente a riattivare il motore dell'economia e servirà un'azione costante, io aggiungo anche molto mirata, sui settori più in crisi. Siamo consapevoli che la riapertura delle attività non è sufficiente a riattivare il motore della nostra economia, provata da 2 mesi di restrizioni e anche, non dimentichiamolo mai, dal crollo generalizzato della domanda globale. Di fronte a uno shock di tale portata è necessaria un'azione costante, efficace, prolungata di accompagnamento delle attività produttive e commerciali da parte dei pubblici poteri. Con il decreto legge cosiddetto rilancio numero 34, il governo ha proseguito l'azione di sostegno all'economia avviata dai decreti cosiddetto Cura Italia e liquidità, ma ha anche compiuto un passo in più, ponendo le basi per una ripartenza economica del Paese. Il provvedimento, lo sapete, stanzia 55 miliardi di euro misurati in termini di indebitamento netto, che vale 155 miliardi di euro in termini saldo netto da finanziare, considerando anche il finanziamento delle politiche per la liquidità. Lo offriamo ovviamente alla valutazione del Parlamento e al contributo migliorativo che ne deriverà. E poi, prima di affrontare il tema delle modifiche sul DL imprese, la bagarre alla Camera, che cosa è successo? Perché vi è stato un intervento del deputato dei 5 Stelle Riccardo Ricciardi che ha attaccato la sanità lombarda, ha detto lei, Presidente del Consiglio, doveva fare come Gallera, l'assessore al welfare lombardo, che in conferenza stampa si presentava puntuale e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. E ha attaccato l'opposizione dicendo: proponete il modello Lombardia. C'è stata una bagarre enorme con i deputati leghisti. Sentiamo un passaggio. Chi l'attacca propone un modello amministrativo sanitario. Quale propone? il modello Lombardia. Vede, lei... Colleghi, colleghi, deputato Rixi, colleghi, facciamo concludere, poi avrete il vostro intervento. Panizzut, per favore, la mascherina. Lei, presidente, prego, poteva fare come l'assessore Gallera, che in conferenza stampa arrivava puntualissimo e annunciava che in Cina si faceva meglio, in Lombardia si faceva meglio di in Cina. In Cina hanno messo 10 giorni a costruire un ospedale, in Lombardia 6. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini deputato lombardi. Deputato Ferrari. E non li ha spesi, deputato Ferrari. Li ha spesi la Lombardia. Allora, due puntualizzazioni. Allora, sull'ospedale in fiera si può dire quello che si vuole, sicuramente, però i soldi non erano statali, questo va detto, non erano soldi di Roma o di Milano, erano soldi di privati, e quindi sono soldi donati. Poi, giustamente, ho visto Bertolaso che pubblicherà la lista dei donatori e si cerca di capire, io non so se sia corretto chiuderlo adesso dopo che l'abbiamo costruito, sicuramente non è stato un gran successo, ma... aspettiamo, perché non vedo le previsioni su un autunno ancora del tutto incerte, aspettiamo a chiuderlo, per cui bisogna essere precisi, i soldi erano di donazioni di privati, per cui detto questo, a mio avviso ho visto che anche alcuni 5 Stelle hanno parlato di toni eccessivi da parte di Ricciardi. Guardate, non mi sembra ancora il momento, ci sono ancora centinaia di morti ogni giorno, non mi sembra il momento per... Poi voglio dire, giustamente, in un paese, al di là della magistratura, si farà anche una commissione d'inchiesta un domani per capire che come mai la Lombardia ha avuto questa esplosione di casi nell'RSA, negli ospedali, soprattutto di Bergamo e Brescia. C'è la critica alla nosocomizzazione, all'ospedalizzazione del virus, però non buttiamola solo come lotta politica. Facciamo un'inchiesta seria, soprattutto per imparare da altri modelli. Ho visto che Salvini dice 5 Stelle si devono sciacquare la bocca prima di parlare della sanità lombarda. Sì, ma dico, Salvini ha comunque anche facilità nel dire, guardate che per esempio la sanità veneta gestita da un leghista come Zaia ha funzionato benissimo con una maggioranza analoga, quindi non è un problema politico, è un problema di modelli, senza che nessuno lo prenda come un'accusa a un partito. Ripeto, Veneto mi sembra gestito sempre da Lega e Forza Italia. Ma è un problema di modelli, di approcci. Cerchiamo di non buttare a tutto in politica e di capire i modelli che hanno funzionato. Per esempio, la sanità lombarda, a mio avviso, di cui ci siamo occupati molte volte, che ha delle punti di eccellenza enormi in tantissimi campi, dall'oncologico al cardiologico, quello che volete, forse deve ripensare, anzi senza forse, deve ripensare il modello di medicina del territorio, perché in questi casi non ti serve il grande centro specialistico, ma ti serve la presenza dei medici sul territorio. Ma questo senza un attacco alla Lega o Forza Italia, perché quel modello lì, per esempio, la Lega Veneta, quella di Zaia, l'aveva applicato. Quindi. Due cose ancora sulla fase 2 o la fase 3. Allora, gli spostamenti dalle regioni a regione il 3 giugno, ha detto il ministro Boccia, se c'è alto rischio, no. Quindi se una regione a basso rischio sarà consentito, se una regione invece è a alto rischio, no. E tra l'altro ha detto che la maggior parte delle regioni sono a rischio basso, tranne 3 regioni che sono a rischio medio. E il Paese, segnalo, che scrive che dice l'Italia va troppo veloce sulla fase 2 e la Moncloa, cioè Madrid, che ha sempre seguito il modello italiano, si è sganciata dall'Italia perché crede che stia accelerando troppo, va troppo in fretta nella de-escalation. Magari andrà tutto bene, avrebbe detto il Premier Sanchez, però stanno rischiando molto. Il governatore Lombardo Fontana sulla movida, sulle quali ha detto chi sottovaluta le regole chiuderà. E ancora due notizie, uno riguarda la Azzolina. Ritorno a scuola, il governo accompagnerà il ritorno a scuola in sicurezza considerate le condizioni determinate dall'evoluzione epidemiologica. Vabbè. a breve protocollo per riaprire a settembre. Sì, speriamo che sia breve. Ministro Azzolina, stiamo lavorando anche alternative al concorso straordinario. E la CGIL dice: la tregua è finita, siamo pronti allo sciopero per la scuola. Il governo non creda che è tutto a posto. Allora, dunque, qualcuno mi dice: beh, cosa si preferiva, i letti pieni? No, siamo contenti che i letti fossero rimasti parzialmente vuoti. Io ho detto solo: non smantelliamo quel centro, l'ospedale della Fiera. Allora, la Lombardia ha 11 milioni di abitanti, il Veneto 3, no, sono 6. Comunque, in Veneto c'è stato un temporale, in Lombardia un uragano, no? Però qua dobbiamo capire, cioè, se no continuiamo a pigliarci per i fondelli. O diciamo che per qualche strano motivo la Lombardia è stata bombardata solo lei dal virus, ma se guardate la parte iniziale di questo cavolo di coronavirus, i contagi erano molto simili in Veneto e in Lombardia. Oppure diciamo che è tutto un altro nesso causale, che la gestione lombarda del coronavirus, ospedalizzando, spostandoli nell'RSA e via così, ha creato la bomba. Ma non è che la bomba l'hanno sganciata dall'alto. E vale anche per l'Emilia Romagna, in parte per il Piemonte. Cioè, bisogna stare attenti, perché sennò sembra che qualcuno abbia deciso di buttare una bomba in Lombardia invece che in Veneto. Non è così, sennò non si è imparato nulla. Se si continua con questa scusatio non petita di dire noi abbiamo avuto sfiga o noi abbiamo avuto la bomba, è una balla. Quello che noi stiamo vedendo è che c'è stata una gestione sbagliata in cui si recavano i positivi negli ospedali, nei pronti soccorso, facevano diventare delle bombe batteriologiche quegli ospedali, e una gestione diversa in Veneto. Ma non lo dico per polemica, sono due regioni dello stesso colore politico, porca miseria. Lo dico perché non vorrei mai che di fronte a, non vorrei mai, mai me lo auguro, di fronte a nuovi focolai, non si fosse imparata in questa regione la lezione. Tienili a casa, fai monitoraggio, cerca di fare i tamponi, non li portare subito in pronto soccorso, e crea il triage e i percorsi dedicati. Questa è la lezione, al di là della polemica politica. Basta continuare a dire che qua abbiamo avuto sfiga, è arrivata una bomba. Ma che bomba? Dai, metti pubblicità. Focus Economia. :17:44 minuti, non vi dico gli insulti che mi sono arrivati, immagino, da lombardi, perché ho osato dire che, al di là della polemica politica di cui non me ne frega niente, forse bisogna guardare i modelli che hanno funzionato Veneto. Allora, è chiaro che la polemica non può essere politica, perché c'è la stessa compagine di governo, no? Lega e Forza Italia. E non capisco veramente, al di là degli insulti, quale sia il problema. Cioè, vogliamo dire che ha tutto funzionato bene in Lombardia? Vabbè, diciamo così. Faccio solo notare a chi mi sta riempiendo di insulti, evidentemente lombardo, che se la Sicilia o la Campania o la Puglia avessero, per via di una gestione come quella fatta in Lombardia, accumulato casi che sono non hanno nessun tipo di proporzione sulla popolazione residente. Il 50% degli abitanti, lo dico ai geni che mi scrivono, di questo paese non abitano in Lombardia. Allora, se avessero, poniamo la Sicilia e la Campania, creato un rapporto di casi, di decessi, che da solo faceva il 50% del paese, io voglio vedere se questi geni che mi scrivono si sarebbero messi a difendere la Sicilia e la Campania. Perché ho la sensazione, e mi stanno girando veramente, cari... che qua non si possa mai criticare la Lombardia, di cui ho tessuto le lodi in questi anni decine di volte sui modelli sanitari, ma se una volta si può traimparare anche dagli altri, immaginate, fatevi un esame di coscienza invece che rompere le scatole a me che sto in diretta. Chiedetevi: se fosse successa la stessa cosa in Campania, cosa avreste detto della gestione campana o siciliana? Eccoli lì, la sanità, bene, siccome brucia, allora ho capito. Fate l'applauso a Zaia, che è della Lega, quanto i leghisti che mi scrivono, e vedi che non è un problema di partito. Fate l'applauso a Zaia, sì, buffone, venduto, quello che volete, dai. Allora, ma sentite, sapete che c'è? Utilizziamo il modello Lombardia. La prossima volta che scoppia facciamo la stessa cosa, va bene così? Trasferiamo tutti nel RSA e li accogliamo tutti quanti in pronto soccorso. È rotto anche qui. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Meglio che stia zitto. Allora, il DL Imprese, ha cambiato, ha esteso a 10 anni dai 6 anni precedenti i prestiti fino a 25.000 euro con garanzia fino al 100% da parte dello Stato e, se ho ben capito, porta il massimo da 25.000 a 30.000 euro. Prima domanda, vuol dire che il 30% dei ricavi, cioè 30.000 fino a 100.000 euro di ricavi? No, vuol dire che fino a 30.000 euro si può ricevere il prestito con garanzia integrale del fondo di garanzia, mentre prima questo tetto era fissato a 25.000. La cosa importante da aggiungere è che queste nuove condizioni, che al momento sono state votate in commissione alla Camera, poi devono andare in aula al Senato e così via, quando diventeranno legge potranno essere applicate anche ai prestiti erogati prima. Questo è anche particolarmente importante per quel che riguarda l'allungamento delle scadenze, perché la scadenza fissata dal testo originario era per tutti 6 anni, questo determina ovviamente una rata di ammortamento più alta, rata annuale diciamo più alta rispetto a un orizzonte decennale che potrà essere raggiunto in base alle nuove regole. Tra l'altro l'allungamento di 10 anni va nella direzione, anche se non è quella che era stata chiesta dalle imprese, penso da Confindustria, da Bonomi, lì si chiedeva di portarlo a 30 anni, ma comunque è comunque un allungamento. Quando è che andrà ripagato? Perché nella prima versione erano dopo i primi 2 anni, si pagavano solo gli interessi all'inizio, nei primi 2 anni. Sì, al momento, come dire, la modifica è articolata per quel che riguarda il termine finale. Va detto a questo riguardo che ci sono anche i 30 anni chiesti dalle imprese, non per i prestiti però garantiti fino al 100%, cioè per diciamo la seconda classe di prestiti, quelli fino a 800.000 euro, che hanno una garanzia di base all'80%, l'orizzonte si potrà allungare fino a 30 anni. Ancora per quello che riguarda la liquidità, le domande sul DL liquidità, oggi il fondo di garanzia ha fatto sapere che sono arrivate 303.000 domande per un importo complessivamente di 13 miliardi e 840 milioni. La stragrande maggioranza, cioè più di 270.000, riguardano finanziamenti fino a 25.000 euro. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dice viaggiamo su 50.000 domande, quella per la moratoria, che riguarda il resto. Ora ti faccio ascoltare Conte, il Presidente del Consiglio Conte, sul mondo bancario, che ha detto il Presidente del Consiglio deve fare di più, anche perché con le norme disposte dal governo i prestiti si possono erogare nel giro di 24 ore, mi sembra un po' ottimistica come previsione, comunque sentiamo Conte. Il sistema bancario, che pure sta offrendo la sua collaborazione, può e deve fare di più, in particolare per accelerare le procedure necessarie a erogare i prestiti coperti dalla garanzia pubblica. Le norme contenute nel decreto legge liquidità, infatti, consentono, nel caso di soprattutto di richieste inferiori a 25.000 euro, di erogare prestiti garantiti nel giro di 24 ore. In alcuni casi sono state rispettate queste tempistiche, ma mi giungono molte segnalazioni. E colgo positivamente questi segnali, sono giunti anche a voi, che in molti altri casi, e nella maggior parte dei casi, questo non sta avvenendo. È essenziale per questo che le banche riescano ad allinearsi alle pratiche più efficienti, assicurando la liquidità garantita nei tempi più rapidi. Non possiamo tollerare che le imprese possano sentirsi private del denaro necessario per garantire la continuità economica delle proprie attività. Allora, devo dire che obiettivamente a me non risultano casi di prestito erogato in 24 ore, Gianni, anche perché la modulistica da riempire, appunto, le 19 pagine, i 75 campi. Ma al di là delle 24 ore, il governo, oltre a dire che le banche devono fare di più, sta ragionando su quello che molte banche ci dicono, cioè manca la copertura, lo scudo legale nel caso tu presti soldi a un imprenditore che poi fra qualche anno fallisce e dovesse svegliarsi una procura per dire no, tu hai contribuito al fallimento. Cioè loro vogliono dire guardate che noi stiamo facendo da intermediari, non voglio difendere le banche, l'ho sempre criticate su questo, però c'è un tema di scudo legale o no, di scudo penale o no? Ma c'è talmente questo tema che il governo non ci sta pensando, ma ci sta pensando il Parlamento, a cui ora tocca la palla del decreto liquidità, perché un emendamento votato nelle scorse ore, sempre nelle commissioni che dicevamo prima, prevede che richiesta di prestiti garantiti viaggi integralmente per autocertificazione, con responsabilità collate sotto forma di sanzioni a chi presenta autodichiarazioni false. E questa norma, che è stata spinta in particolare da Italia Viva e che ha poi trovato la convergenza di tutti i gruppi, anche del 5 Stelle, appunto toglie, diciamo, dal capo delle banche gli obblighi di verifica puntuale caso per caso, perché assegna lo strumento all'autodichiarazione e la responsabilità a chi presenta l'autodichiarazione. Quindi, come dire, è talmente vero che il problema c'è, che ci sta pensando il Parlamento, per cui la politica, certo, è come dire, sempre più comodo addossare le responsabilità agli altri settori, ma la politica pensi a quello che può fare la politica, certo. Le banche pensino a quello che possono fare le banche. Anche per eliminare ogni, non dico che sia una scusa, ma ogni elemento che può frenare questo, per cui una volta che tu realizzi lo scudo, diciamo, e la banca, ammetti che la banca sta facendo solo Gianni da intermediario rispetto a quella che è una garanzia dello Stato, no? Nel senso, non è che sta valutando di dare 25.000 euro a Barisoni, come farebbe in una situazione normale, in cui un domani puoi dire perché hai prestato 25.000 euro a Barisoni, che era in uno stato prefallimentare. Deve guardare ad alcune cose, l'antiriciclaggio, appunto, che sei in bonus, così, ma poi non può essere accusata di aver fatto erogazione di credito come fa di solito, o come magari non fa di solito. L'ultimo elemento, l'autocertificazione, ho visto dal DL Imprese, ok, è l'autocertificazione per i finanziamenti. Questo dovrebbe snellire un po' le procedure? Beh sì, perché naturalmente toglie, diciamo così, tutti i tempi di istruttoria a carico delle banche. L'ABI all'inizio, quando è stato pubblicato il testo originario del decreto liquidità, aveva appunto sottolineato il fatto che questo non toglieva gli obblighi classici di istruttoria, che sono appunto un obbligo di legge prima di dare un prestito, e quindi hanno dei tempi tecnici che non potevano essere derogati. Se tu passi all'autocertificazione, togli tutti gli obblighi di istruttoria, perché l'obbligo è in capo al richiedente, quindi presentare un'autocertificazione con dati corretti, levi gli obblighi di verifica a carico delle banche, quindi levi anche i tempi tecnici necessari a svolgere. Certo. Allora, speriamo che almeno anche che questo contribuisca ulteriormente. No, questo sicuro, l'autocertificazione sicuramente, e anche lo scudo penale. Speriamo che il Parlamento si muova rapidamente su questo. Io ringrazio intanto Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Non ho più intenzione di rispondere a chi mi sta riempendo di insulti, a qualcuno inneggia da cao, ma pazzi. Guardate, ho detto abbiamo fatto intere puntate nei mesi scorsi sul turismo sanitario, dimostrando quanti soldi per via della sanità non buona di Puglia, Campania, Sicilia e Calabria, quanti soldi venivano trasferiti dalle regioni del sud e dalle regioni del nord, in primis Lombardia e Veneto, in parte anche Emilia Romagna, perché la sanità è di eccellenza, e quindi l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, ok? Ma poi mi scrive questo che dice: se lei fa un calcolo contagi morti sugli abitanti, il Veneto è primo. Ma che numeri ha visto lì? Ma che film ha visto lei? Si può dire qualcosa? O la regione Lombardia è come Fonzi e non sbaglia mai? Ma dove siamo arrivati? Poi tutti questi geni che mi riempiono di insulti, inneggiano, possono citare Formigoni? Ho visto addirittura un'intervista a Formigoni. Voglio dire, forse qualche errorino nell'impoverire la sanità del territorio, e andando, forse vogliamo ricordarci perché Formigoni è stato incarcerato, che i soldi non riguardavano tangenti di altro tipo, ma tutto il mondo che ruotava attorno alla sanità lombarda. Forse possiamo, prendetevela con Formigoni, che volete da me, inneggiate a Zaia i modelli che hanno funzionato, basta, su. Inutile avere il complesso di Fonzi. Comunque andiamo sul GR24, poi ascoltiamo i dati. Vedo che quelli della regione Lombardia, per fortuna, visto che qui abito, lo dico da alcuni geni, sono in calo i decessi, 65 decessi. Questo dovrebbe portare bene al dato nazionale e continua anche il calo dei ricoveri. In terapia intensiva 5 in meno, sono 226, e negli altri reparti sono 162 in meno, per un totale di 4.119. Avremo anche i dati nazionali dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vi siete persi nella giungla dei libri e non sapete cosa scegliere? Niente paura, Radio 24 vi viene in soccorso con Il cacciatore di libri. Due scrittori e due romanzi per ogni puntata. Una chiacchierata informale per scoprire qualcosa in più sui personaggi e i loro autori. Sono Alessandra Tedesco, vi aspetto ogni sabato per parlare di libri. Siamo in onda ogni sabato alle 15.30, ma resta l'appuntamento per i mattinieri alle 6.30. Se avete nostalgia della versione serale, c'è sempre il podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Formaggio Gran Moravia di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali e nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo degli investimenti nelle infrastrutture anche digitali, ma capiremo anche perché, e poi invece del fronte balneari, visto che oggi ci sono state tra ieri e oggi varie dichiarazioni di governatori delle regioni interessate, penso alla Sardegna ma non solo. Dicevo, i dati diffusi oggi, allora i decessi sono 156, purtroppo speravo un po' di meno visti i dati della Lombardia, che erano buoni oggi sui decessi, 55, quindi sempre sopra quota 100, più 0,5%. Non si muove il dato sui decessi come incremento giornaliero, è sempre uno 0,5% fisso ormai da, diciamo, dall'inizio, dalla fine della settimana scorsa. I positivi sono 1.792 in meno, meno 2,86%. Le terapie intensive sono 36 in meno, meno 5,3%, e questo dato è buono, superiore a quello di tutta la settimana. E i ricoverati sono 391 in meno, sono il 3,8% in meno, e questo dato è, anche questa percentuale è in linea con tutta la settimana. Guariti li ho detti, più 2.278, più 1,7%. Diciamo che se si guardano i contagiati, è chiaro che contano le terapie intensive, però i ricoveri, quant'altro, siccome qui stiamo ragionando su il 4, la differenza col 4 maggio e soprattutto col primo weekend di fase 2, quello famoso dei Navigli e quant'altro, questi dati sono importantissimi perché si inizia ad avere quasi due settimane di scansione temporale, che di solito è indicato come il tempo in cui si sviluppano i sintomi, quindi li guardiamo con estremo interesse anche per questo motivo. Allora andiamo sulla parte che riguarda sui pagamenti, però le imprese, o meglio le agenzie bancarie, dopo quello che ha detto Conte, speriamo, l'autocertificazione dovrebbe dare uno snellimento veloce, speriamo, come diceva Gianni Trovati, che rapidamente il Parlamento dia anche lo scudo, diciamo, legale a chi concede il credito. Però oggi critico nei confronti del governo, deluso dal governo lento, il sindaco di Napoli De Magistris, che ha detto arriva prima la liquidità della criminalità di quella dello Stato. Questa mattina ospite di Maria Ratella e Simone Spezia, 24 Mattino. La ripartenza, chiamiamola così, la fase centrale della fase 2 è complicata. Da oggi dovrebbero riaprire, ma molti non apriranno ancora, ristoranti, trattorie, pizzerie, è dura. molte saracinesche non si alzano, chiaramente la situazione economica complicata, il governo arriva con una lentezza, non arriva per nulla a dare liquidità, quindi è una situazione difficile. Io sono molto deluso, lentezza, assenza di visione, non arriva la cassa integrazione che era stata promessa da mesi, arriva pochissima liquidità, altri invece stanno immettendo liquidità ed è la criminalità. Se la criminalità arriva prima dello Stato, lo Stato è molto lento, si possono fare tutte le circolari che vogliono, ma poi quello che serve è iniettare risorse, iniettare liquidità, e in questo il governo è molto lento. Oh, vediamo cosa diranno quelli che mi accusano di essere filo governativo adesso. Immagino applausi a sto punto. Guardate che sulla lentezza del governo non vuol dire scusare le banche, però se si notano degli imbuti, quelli veri, non quelli dell'Azzolina, se si notano degli imbuti è giusto sbloccarli e aprirli, perché voglio dire, è chiaro che l'autocertificazione adesso forse dà una mano, lo scudo penale sull'erogazione del credito anche, e poi basta, poi non vi saranno più scuse per le banche. Ora, se c'è una cosa, non dico positiva, perché insomma, di questo coronavirus positivo non ha nulla, ma che almeno è servita a velocizzare il paese, è il salto digitale che tutti noi abbiamo fatto, dai nostri figli, purtroppo obbligati, un torto collo, a fare lezioni a distanza, anche ai genitori. E pensate solo, praticamente in qualche settimana abbiamo recuperato ritardi di anni sullo smart working e la didattica a distanza. Sulla didattica a distanza non è che abbiamo proprio recuperati, lì perché c'è anche un problema di devices, di mezzi, di strumenti, però è innegabile che sia stata un'accelerazione sul fronte digitale. Pensate semplicemente a come la protezione civile ha introdotto una semplificazione fondamentale nel sistema sanitario, cioè la ricetta elettronica, senza che uno poteva presentare in farmacia o al medico specialista. Queste sono state accelerazioni. Quello che mi sembra di capire è che però forse quando si parla di infrastrutture, domani faremo tutto il tema delle infrastrutture materiali, cioè autostrade, ferrovie e quant'altro, ci si dimentica che le infrastrutture sono anche quelle digitali. Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale, buonasera. Buonasera a tutti, salve. Senta, io dicevo che ho torto collo per la gravità di questa pandemia, di questa emergenza. Tutti noi abbiamo fatto un salto nel digitale. Ora, dal vostro punto di vista, è chiaro che anche questa è un'infrastruttura fondamentale. Però noi abbiamo visto che per ora il governo alle imprese, anche quelle delle costruzioni, al di là di promettere una semplificazione burocratica che ancora non vediamo sul codice appalti, ha dato, diciamo, le erogazioni o ha messo a disposizione le erogazioni di liquidità o di prestiti per le altre imprese. Voi che cosa chiedete nello specifico? Ma noi praticamente abbiamo osservato, come stava dicendo lei poco fa, che si può fare una sburocratizzazione veloce e basta volerlo. Quello che lei ha citato come provvedimento del commissario straordinario all'emergenza ha risolto un problema su cui noi stavamo lottando da anni, da 5 anni, perché non era possibile, per tutta una questione burocratica, dare ai medici di famiglia la possibilità di mandare le ricette elettroniche direttamente agli assistiti, in maniera tale da poterli ritirare i farmaci direttamente in farmacia. Quindi noi abbiamo osservato che questa burocratizzazione si può fare. Quello che noi chiediamo è che l'esempio che c'è stato in questo periodo venga portato avanti, e la lamentela che noi abbiamo a caldo tirato fuori al decreto legge sul rilancio è che c'è stata una distribuzione di risorse a pioggia dappertutto, ma senza una visione strategica e senza soprattutto mettere le basi per quello che noi riteniamo fondamentale, cioè ammodernare il paese. Quando noi nel concreto, però, Avenia, io sono d'accordo, all'inizio c'è stata, e ancora i provvedimenti di cui stiamo parlando, penso al DL imprese, sì, i 600 euro, la cassa integrazione in deroga, sono stati una risposta erga omnes, cioè verso tutto il mondo, perché tutto era praticamente, non tutto, ma insomma, la stragrande maggioranza dei settori erano fermi. Adesso, superate appunto le fasi dei ristori, diciamo così, a mio avviso si dovrà andare a intervenire sui singoli settori in maggiore difficoltà. Voi che cosa chiedete? Perché insomma, un tema che è emerso per esempio nella scuola, nella didattica a distanza, è che va ad ampliare il divario sociale, mentre la scuola dovrebbe ridurlo, perché le famiglie più benestanti hanno più tablet, hanno il wifi che funziona bene, così poi ci sono famiglie in cui c'è un tablet in tutta la famiglia, i figli devono seguire le lezioni sul telefonino, immaginatevi voi sullo smartphone che cosa vuol dire, e quindi voi state pensando a uno strumento ad hoc, cioè, di solito sono agevolazioni fiscali, prego. Secondo noi bisogna impostare da subito un vero e proprio decreto ricostruzione. Noi dobbiamo far sì che gli interventi strutturali che ammodernino il paese e che utilizzino la tecnologia digitale per ammodernamento debbano essere fatti con una visione di medio e lungo termine. Noi dobbiamo preparare un piano di grossi investimenti su tutti questi settori, sulla transizione al digitale dei servizi della pubblica amministrazione, sulla incentivazione al digitale delle famiglie, perché guardi, il problema più grosso che abbiamo nel nostro paese è un problema culturale. Noi dobbiamo assolutamente far capire alle famiglie che, oltre che quello che hanno potuto fare in 4 e 48 in questi giorni di lockdown, devono vedere come possono farlo in maniera strutturale, così come nella scuola, per non parlare della sanità. Per la scuola, per esempio, noi abbiamo fatto una proposta molto chiara: fare prima di tutto in modo che tutte le scuole siano collegate nell'ambito del progetto della Gigabit Society con almeno un giga, quindi tutte le scuole collegate. E poi devono essere date alle scuole delle risorse, perché non è possibile che noi lasciamo dietro tutti quei bambini che non hanno, come diceva lei, una famiglia dietro. Sì, ho visto iniziative anche di imprenditori privati, lodevoli, ci mancherebbe, o anche di singole scuole. Però, ma questi strumenti devono essere in mano alla scuola. La scuola, quando decide di passare una didattica a distanza, che ci può stare anche in un programma complessivo, deve dotare i bambini di questi strumenti, e si fa anche la didattica. Ma io dico una cosa: da sempre, quando la scuola la facevo io, c'era la possibilità per le persone meno abbienti di ricevere i libri, diciamo, gratuitamente, no? Bravo, ecco. Esatto. Che è un grande principio di equità. Io vorrei che si arrivasse a una cosa simile. Non è che stiamo regalando il tablet magari verrà dato in prestito, non lo so, ci saranno disposizioni in base all'ISEE, alle famiglie che sono meno abbienti. Poi sul fronte culturale io le do ragione, perché per carità sappiamo che in alcuni casi uno magari preferisce spendere dei soldi per spese più amene, dall'aperitivo o quant'altro, e vai a vedere quello che è il costo di un abbonamento del wifi, voglio dire, stiamo parlando di 3 aperitivi al mese, 4 aperitivi al mese, per cui c'è anche un tema di arretratezza culturale. Penso però che una leva forte potrebbe arrivare a Venia se uno potesse per esempio portare in detrazione sotto una certa soglia di reddito le spese effettuate per un tablet, immagino, se diciamo dimostra che certo. No, nel senso, perché la poi modalità... va bene l'atteggiamento culturale, ma diamo anche qualche incentivo. Ma di questo stiamo parlando, quando parliamo di un piano di incentivazione digitale per le famiglie, parliamo di voucher che devono essere dati alle famiglie, ovviamente in base ai redditi, per dotarsi delle dotazioni digitali di cui hanno bisogno. Di questo stiamo parlando. Senta, adesso vedremo se arriverà. Poi io immagino che poi, pensate, tutta la riapertura della scuola sarà fondamentale, questo tema. Non ho ancora capito se le classi verranno fatte la mattina, metà la mattina, metà pomeriggio, addirittura alternando un giorno sì, un giorno no, e a maggior ragione deve avere una strumentazione digitale. Vediamo. Sì, ci sono 300 euro di libri all'anno, vabbè, vedremo se vi saranno iniziative su questo. Noi interessiamo in questo momento accendere un faro, perché ripeto, ci stiamo spostando sempre più dalla fase 2 delle riaperture alla fase 3, che continua a dirlo fino allo sfinimento, dovrà riguardare l'aiuto ancora, il sostegno ai settori che, nonostante le riaperture, scuola, turismo e quant'altro, la scuola non è proprio un settore, avranno ancora difficoltà, e per questo iniziamo a accendere i fari. Grazie intanto a Cesare Avenia, presidente di Confiducia Digitale. Andiamo sul traffico, e poi vediamo di capire come invece si stanno preparando a proposito di turismo le associazioni dei balneari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Focus. Nottetempo la regione ha deciso che si apre il 23 anziché il 25 e al di là diciamo delle discutibili modalità, però noi siamo contentissimi. Il semplice fatto di poter dire che la stagione si è avviata e quindi poter accogliere già sulla parte a mare, nei ristorantini piuttosto che nei chioschi, i nostri cittadini e i nostri turisti ci fa risorgere il sorriso. E a dire la verità, la parte diciamo più strettamente dedicata all'ombreggiamento e alle brandine è work in progress, perché ancora oggi i miei operatori del mare stanno montando, però anche questo ha un fascino. E diciamo che probabilmente l'anticipo rispetto al 25 è dato per poter godere di questo bel weekend che accoglierà, ahimè, solo gli emiliani romagnoli, e ahimè per la nostra costa si sta già perdendo, perché normalmente per il periodo pasquale noi siamo operativi, però a questo si deve anche aggiungere il fatto che quest'anno avranno sicuramente molti più costi per la igienizzazione e per tutti i presidi. Qui nessuno intende diciamo tra virgolette lucrare. Noi vogliamo riproporci sul mercato e ai nostri turisti come località aperta e come località accogliente, come siamo sempre stati. Sono tutti assai consapevoli che quest'anno non si guadagna. Se noi portiamo a fare la metà dei fatturati dell'anno scorso, con un grandissimo senso di responsabilità per il quale io ringrazio i miei operatori. Qui si tratta di tenere anche in luce un brand, il brand della città di Riccione, e tutti insomma si sono resi disponibili. La Sardegna ha avuto fortunatamente una gestione delle curve di contagio efficiente, per cui è la regione con la più bassa circolazione e arriveremo in qualche giorno ad essere completamente Covid free. Possiamo quindi offrire a tutti i turisti la possibilità di arrivare ad una destinazione sicura. Per mantenerla sicura chiediamo una piccola cautela in più, e cioè di poter certificare la propria condizione di negatività al virus in maniera tale che quando si arrivi in Sardegna si possa fare una vacanza degna di tale nome, perché se tutti quelli che entrano nell'isola e quelli che già ci stanno sono Covid free, è chiaro che si possono affievolire una serie di misure che altrimenti dovrebbero stare in piedi come in tutto il resto del paese. Questo sta già accadendo nelle Canarie, che hanno fatto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del turismo, e il 1° luglio partirà il primo volo con passaporto sanitario. Analoghi accordi stanno facendo le Baleari con la Germania. È un documento che verrà controllato all'imbarco e quindi nessun aggravio di procedure, nessuna burocrazia in più. Questi costi non saranno a carico del turista. La Regione Sardegna, in accordo con la Federalberghi regionale, restituirà l'importo speso per effettuare questo test in servizi alberghieri, o qualora i turisti non vadano in un albergo lo daremo in servizi regionali, dall'accesso gratuito a siti regionali sino a dei bonus per l'acquisizione di prodotti tipici locali. Allora, nell'ordine abbiamo sentito da un lato il sindaco di Riccione Renata Tosi al microfono di Alessio Maurizi e dall'altro questa mattina con Simone Spezia e Maria Latella il presidente della regione Sardegna Solinas. Da quello che si è capito all'arrivo poi in Sardegna vi sarà un secondo rapido tampone salivare e l'obbligo di essere tracciati tramite un'app. Io non ho capito se la negatività dei tamponi, quindi sono tamponi, non il serologico... Vorrei cercare di capire oggi, poi continueremo anche domani, con chi rappresenta l'Associazione dei Balneari Italiani, e mi riferisco a Antonio Capacchione, presidente del SIB, Sindacato Italiano Balneari. Buonasera Capacchione. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Poi domani la riprendo perché avremo anche altre dichiarazioni, ma non si sta creando un po' troppa confusione in queste regioni, che insomma, la Sardegna, i tamponi, la Campania, ho visto che il sindaco De Magistris adesso la riprendo, ha detto lavoriamo per il villaggio vacanze Napoli sicuro, cioè non vorrei avere oltre al problema di sapere come muoversi, cosa fare, anche il problema di sapere come va andare in spiaggia. Non siete preoccupati di questo? c'è questo rischio che le regioni in qualche modo hanno cercato di scongiurare con delle linee guida condivise emanate e fatte proprie dal DPCM ultimo del governo. Si è cercato appunto di dare delle indicazioni uniche su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo evitare, come lei diceva, il rischio di una competizione interna fondata poi tra l'altro su elementi di confusione. Abbiamo bisogno di dare certezza. La competizione non è fra territori italiani, la competizione deve essere fra il nostro paese e gli altri paesi nel mercato internazionale delle vacanze. Io mi rendo conto che quest'anno c'è la difficoltà di intercettare flussi dall'estero, almeno al momento, ma concentrarci sulla domanda interna non significa appunto fare concorrenza tra territori aumentando magari disposizioni che possono creare sbandamento e confusione nei turisti. Qual è il problema più grosso che hanno i suoi associati in questo momento, che come diceva anche la sindaca di Rimini stanno attrezzando le spiagge, abbiamo visto anche noi le immagini, è ancora sull'interpretazione della norma oppure almeno su quello, diciamo, con la delega alle regioni c'è maggiore chiarezza? Ma per quanto riguarda le linee guida sul montaggio delle nostre aziende, perché a differenza delle altre noi abbiamo la necessità di ricostruire, di rimontare integralmente l'azienda per fornire i servizi. Per quanto riguarda questi aspetti stiamo andando avanti, naturalmente con un po' di ritardo, perché a seguito del DPCM le varie regioni stanno emanando le ordinanze balneari, dando norme di dettaglio. Naturalmente tutto questo avviene con notevole ritardo, noi stiamo quasi a fine maggio e dobbiamo montare di corsa le nostre aziende, fornire i nostri servizi. Però ecco, non è tanto questo il problema che ci preoccupa, il problema che affligge le aziende balneari è soprattutto di carattere burocratico. Al di là delle licenze, del rinnovo delle licenze, noi abbiamo ancora un problema che deve essere risolto, che l'ultimo decreto legge ha cercato in qualche modo anche di dare una soluzione, che è quello della durata delle concessioni demaniali. Noi abbiamo moltissime aziende la cui concessione demaniale va a scadere a fine anno. Questo non è, quindi voi vorreste una proroga di almeno un anno, immagino, perché prima o poi vanno riviste queste concessioni, ma non è forse questo il periodo adatto, se ben capisco? Noi abbiamo una legge dello Stato che non è stata impugnata dalla Commissione europea, che non è stata inficiata dalla Corte Costituzionale, una norma che stabilisce la durata delle concessioni demaniali al 31/12 del 2033, moltissime aziende, sto parlando del 50-60% delle aziende italiane, ancora non ha avuto questa formalizzazione da parte degli enti concedenti, se essi autorità di sistema portuale, se essi comuni. È questo che è indispensabile per dare certezza a operatori che devono lavorare, certo, in un periodo particolarmente complicato. Sì, io adesso così, semplicemente col buon senso direi va bene, spostatela di un anno la scadenza delle concessioni, e sperando che appunto nel 2021 vi sia un altro scenario. Devo dire che invece il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato oggi la creazione di un fondo turismo di 50 milioni di euro, mi sembra un po' poco come dotazione, però che avrebbe come obiettivo il taglio dell'IMU per gli alberghi e appunto il bonus vacanze. Sul bonus vacanze, dimostrazione che il governo lo critichiamo e come, io penso che sia talmente incasinato quel bonus vacanze, l'80% deve anticiparlo l'albergatore, che non è quello lo strumento, al di là delle soglie ISEE, che mi sembra che siano 45.000 euro, non è quello lo strumento, è troppo complicato, avrai le resistenze degli albergatori, trovate un altro modo di un bonus. Secondo me la cosa più semplice era un bonus che potesse andare, cioè una cosa con cui potessi andare almeno in credito d'imposta a dimostrazione della spesa effettuata, della fattura dell'albergo, quant'altro. Comunque, grazie anche al Presidente del Sindacato Italiano Balneare, Antonio Capacchione, veramente tutto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni intanto l'auguro di una buona serata.